Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans, risvegliarmi senza un euro, dai una figlia a Bogotà. Noi tre metri sotto il cielo, non ti togliere le usar, che per terra c'è del vetro. Non è fatto l'università perché odi tuo padre, la tua tessera d'identità è ridotta proprio male. Io per te ci morirei come ha fatto Kurt Cobain, perché ridi se dico così. Sto posto chiuso, entriamo qua, scavalca il muro, dai non ti va. Lo so, son fuso, fuso di te, fuso, fuso di te. Svelta o poi ci beccano. Questa notte la città non ci prenderà sul serio, giovani in cattività che non parlano nemmeno, ma si atteggiano da star mentre ascoltano lo stereo. Stanotte, stanotte, questa notte la città non ci prenderà sul serio, giovani senza l'età che fumano arcobaleno all'uscita di quel club con in faccia un occhio nero. Stanotte, stanotte, voglio farmi ma di te, grazie a Dio l'amore cieco, perché al quinto shot di bleh sono storto e non ti vedo. Le domande delle tre, ma il kebab non era greco, t'han parlato un po' di me, se l'han fatto non è vero. Tu che credi che già la tua età ti possa innamorare, io che ho perso la verginità ai 13 anni al mare. Io per te ci morirei come ha fatto Kurt Cobain. Lo conosci? È un tipo di qui. Questa notte la città non ci prenderà sul serio, giovani in cattività che non parlano nemmeno, ma si atteggiano da star mentre ascoltano lo stereo. Stanotte, stanotte, questa notte la città non ci prenderà sul serio, giovani senza l'età che fumano arcobaleno all'uscita di quel club con in faccia un occhio nero. Stanotte, stanotte. Si atteggiano da star mentre ascoltano lo stereo. Stanotte, stanotte.